Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Chiudiamo lo speciale sulle celle a combustibile che ci ha accompagnato per tutta questa settimana con una puntata dedicata a una famiglia di tecnologie completamente diversa da tutte quelle di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, ovvero le cosiddette fuel cell microbiche, cioè dei dispositivi, dei sistemi che sono in grado di raccogliere l'elettricità che si genera naturalmente nei processi biologici messi in atto in particolare da certi microorganismi. Per parlarne andiamo a Bristol, alla University of the West of England, dove incontriamo il professor Carlo Santoro. Buonasera Santoro, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, senta, io direi che possiamo partire proprio dai protagonisti di queste celle microbiche, che sono questi microbi, appunto. Sì, appunto, sono dei batteri che sono chiamati elettroattivi, che sono in grado di degradare e ossidare la sostanza organica, e attraverso il loro metabolismo sono in grado di rilasciare elettroni direttamente sull'elettrodo anodico. Questi elettroni si muovono attraverso il circuito esterno e sono in grado di generare corrente elettrica che può essere utilizzata. E questa è la cosa diversa e più interessante rispetto alle altre celle a combustibile. Alle altre celle a combustibile. Diciamo che qui la vera cella a combustibile è proprio lui, il microorganismo, no? E in fondo non è sorprendente, perché noi tutti esseri viventi abbiamo un po' delle celle combustibili nel nostro interno, se così vogliamo dire, che sono quelle che forniscono nei mitocondri l'energia, appunto, alle cellule. Non è la stessa cosa, naturalmente, ma in fondo di base, diciamo, i fenomeni sono di quella natura. Senta, come sono fatte queste cellule, queste celle a combustibile? Cos'altro ci può dire per provare a immaginarle? Rispetto alle celle a combustibile classiche come le PEM e le SOFC, lavorano a temperatura ambiente, perché abbiamo questi microorganismi, certo, che lavorano comunque a temperatura ambiente. Che non amano essere cotti, naturalmente. Sì, assolutamente. Anche lavoriamo in un pH che è comunque neutro, perché questi batteri lavorano in questo tipo di ambiente, che non sono ambienti di pH estremi come celle a combustibile a idrogeno. Sono molto corrosivi, insomma. Ci vogliono delle condizioni in cui la vita, insomma, riesca a prosperare. Questo è assolutamente chiaro. Ma quali sono le caratteristiche che le rendono uniche? Cosa hanno di particolare dal punto di vista proprio, diciamo, delle applicazioni e dei materiali che utilizzano? Sì, assolutamente. La cosa molto interessante è che sono in grado questi batteri di degradare diverse sostanze organiche che non sono costosi combustibili come può essere l'idrogeno e il metanolo, ma sono in grado di degradare sostanze che sono comunque un rifiuto e che la società d'oggi deve pagare un costo per degradare questo rifiuto. Il problema rispetto alle celle a combustibile PEM, sì, è il problema che è una densità di potenza piuttosto bassa, che è almeno 2-3 ordini di grandezza più bassa. 100.000 volte più piccola. Questo vuol dire che laddove una cella a combustibile PEM, diciamo, ha un volume di un litro, la stessa energia qui me la produce una roba grossa un metro cubo. E anche di più. Quindi non è una roba che ci porteremo in giro, con cui faremo andare le automobili. Questo è chiaro. No. Che cosa invece si può pensare di fare con queste celle? Allora, si possono fare tante varie cose, applicazioni, sì, perché comunque innanzitutto degradiamo un rifiuto e produciamo una bassa densità di potenza, una bassa energia, che comunque possiamo utilizzare attraverso sistemi di harvesting, ad esempio per un'attività di sensoristico, per misurare temperatura, pH, l'anidride carbonica nell'atmosfera, l'umidità e cose varie. Cioè ci sono tutti questi sensori che hanno bisogno di un'alimentazione, lei dice, per esempio possono essere alimentati, magari si trovano, adesso dico una stupidata, ma in mezzo alla foresta, lì c'è tanta sostanza organica, uno può immaginare di usare questa sostanza organica come fonte di energia per far funzionare, sì, questi apparati. Questa è un po' l'idea. Sì. E anche altri sensori ad esempio in mare, ci sono delle celle a combustibile nei sedimenti, utilizzano la sostanza organica nei sedimenti marini per avere dei sensori che misurano anche lì temperatura, ossigeno, certo, disciolto, certo, e cose varie. Dove è poi difficile cambiare le batterie, per esempio, in mezzo al mare, no? Molto meglio una soluzione, sì, del genere. Poi? Poi, ad esempio, noi alla University of the West of England abbiamo lavorato per 3 anni consecutivi al Glastonbury Music Festival e abbiamo utilizzato delle celle a combustibile che usano l'urina umana come combustibile. E l'urina era usata come sostanza organica e l'energia che era stata prodotta da queste celle microbiche veniva utilizzata per illuminare gli urinatoi del Music Festival. Insomma, il concerto, sappiamo tutti, no? Si trovano questi di solito bagni temporanei, spesso e volentieri. Voi la pipì l'avete utilizzata per illuminare, far funzionare queste aree. E anche quando c'è stato un blackout era l'unico posto che avesse luce. Unico posto. Per noi è stata una cosa molto interessante. Poi siamo anche finanziati dalla Bill e Melinda Gates Foundation all'interno del progetto Reinventing Toilet e stiamo comunque portando questi sistemi all'interno di campi profughi per avere la possibilità di avere dell'illuminazione per evitare violenze, ad esempio su donne, stupri e così via. Una cosa importante anche è che questi sistemi possono essere utilizzati off-grid, quindi in zone in cui che non sono collegate con la rete elettrica e quindi dove ci sono rifiuti e i rifiuti possono essere utilizzati come fonte per produrre energia elettrica che può essere utilizzata in qualche modo, anche se una bassa quantità di energia elettrica può essere comunque utilizzata per illuminazione o per altri... connessione, la rete, alimentare i cellulari, fare quelle attività lì dove non serve tanta energia elettrica, ma tra averla e non averla c'è una bella differenza. Assolutamente. E quindi c'è anche questo fattore da tenere in conto. Questo aspetto, insomma, la possibilità che effettivamente questo tipo di tecnologia non serva tanto per risolvere i problemi, come dire, di domanda di energia dell'umanità, ma diciamo in una serie di situazioni specifiche è una risposta che effettivamente non ha molte altre alternative. E per quello stiamo continuando a lavorare per poter utilizzare questa tecnologia in determinate nicchie. E in un futuro l'idea sarebbe quella di utilizzare delle celle combustibili microbiche per trattare l'acqua. Nel processo di depurazione delle acque, giusto? Assolutamente sì, e non essere dipendenti da comunque depuratori in cui sono molto utilizzano molta energia. Certo. E sono molto costosi. Negli Stati Uniti, ad esempio, il 4% dell'energia totale è utilizzata per il trattamento di acque reflue. È più o meno la stessa percentuale in Italia, sì. Sì, un po' di meno. Sì, ma sì. Per nostra fortuna sì, un po' meno, però siamo punti di percentuale del consumo energetico. Senta, fra i tanti progetti che sono in corso, che vedono utilizzate queste fuel cell a microbi, anche l'Italia è presente, insomma, è attiva? Sì, assolutamente. Quando si parla di scienza, l'Italia è sempre attiva. Allora, ad esempio a Milano stanno lavorando in alcuni parchi all'interno della città di Milano, l'Università di Milano e l'RSE, che ricerca sul sistema energetico, su floating microbial fuel cell, quindi sono delle celle combustibili microbiche galleggianti, le quali utilizzano le sostanze organiche all'interno dei laghetti dei parchi per generare energia per sensoristica, D'accordo. Di temperatura, pH e tutto. A Roma, il CNR di Roma sta lavorando sulla degradazione di sostanze clorinate utilizzando sistemi bioelettrochimici. Quindi in questo caso per trattare sostanze che magari arrivano a valle di un ciclo industriale o qualcosa del genere? Sì, assolutamente. Poi c'è l'Università di Bologna che si sta occupando di sistemi supercapacitivi in grado di aumentare di un ordine di grandezza la corrente che viene, tra virgolette, buttata fuori da questi sistemi elettrochimici. Poi io so che c'è anche l'Università di Napoli, stanno lavorando su celle combustibili che degradano comunque sostanze organiche che sono solide, e questo comunque per la città di Napoli sono sicuro che sarebbe una cosa molto interessante. Molto interessante, ma in generale diciamo che tutte le volte che si trovano nuovi modi di utilizzare i rifiuti è sempre molto interessante. Senta, dal punto di vista dello sviluppo tecnologico, queste tecnologie, questa famiglia di tecnologie delle celle microbiche ha dei punti deboli, ha degli aspetti che vanno assolutamente migliorati perché possano diventare una tecnologia più diffusa, o siamo insomma arrivati in fondo allo sviluppo? No, c'è sempre, comunque bisogna sempre continuare la ricerca, bisogna sempre continuare a migliorarsi, il costo rimane secondo me il più grosso collo di bottiglia, quindi bisogna diminuire i costi, bisogna utilizzare sostanze che sono riciclate, riciclabili, comunque low cost, commercialmente disponibili. È chiaro che comunque ci deve essere anche l'intenzione di investire in questi sistemi, però da quando sono circa 10 anni che lavoro su questo argomento, si è passati da laboratorio a comunque dei prototipi, e quindi piano piano ci stiamo muovendo dal laboratorio verso applicazioni vere. Va bene, grazie Carlo Santoro. Grazie mille, grazie per la possibilità. Va bene, ci fermiamo qui, si chiude questo speciale dedicato alle celle a combustibile. Noi ci diamo appuntamento all'8 gennaio perché ci facciamo un paio di settimane di vacanze, quindi buone vacanze anche a voi tutti e buona serata.